Capitolo 20. La storia di Margaret. Anna scoprì di poter continuare a vivere e giunse anche il giorno in cui tornò a sorridere per i discorsi della signorina Cornelia. Ma c'era in quel sorriso un'ombra nuova che l'aveva offuscato per sempre. Appena poté allontanarsi da casa, Gilbert la portò con il carrozzino al promontorio di Four Winds e la lasciò al faro. Qui prese la barca e andò a visitare un paziente nel villaggio dei pescatori. Un vento allegro correva sulla baia e sulle dune, formando creste bianche di spuma, dando l'arenile di lunghi nastri d'argento. «Sono davvero onorato di rivederla, Madame Blythe», disse il capitano Jim. «Si sieda, si sieda. C'è un po' di polvere qui, ma basta non guardarla e guardare lo spettacolo che c'è fuori». «La polvere non mi dà fastidio», disse Anna. «Ma Gilbert dice che devo stare all'aria aperta. Credo che andrò a sedermi sugli scogli laggiù. Vuole compagnia o preferisce stare sola?» «Beh, se per compagnia intende la sua, preferisco stare in compagnia che da sola», disse Anna con un sorriso. Poi sospirò. Non le era mai importato di restare sola. Ora lo temeva. Quando era sola, la solitudine le pesava. «Qui c'è un bel posticino riparato dal vento», disse il capitano Jim quando raggiunsero gli scogli. «Mi siedo spesso qui. È un posto magnifico per starsene a sognare». «Oh, i sogni», disse Anna con un sospiro. «Ora non so più sognare, capitano Jim. Ho chiuso con i sogni». «Oh, no, non è vero, Madame Blythe, non è vero», disse pensieroso il capitano Jim. «So come si sente ora, ma con il passare dei giorni tutto andrà meglio e di punto in bianco si ritroverà a sognare di nuovo. Grazie a Dio, se non fosse per i sogni, tanto varrebbe andare sottoterra. Come sopporteremmo di vivere se non fosse per il sogno dell'immortalità? E quel sogno, dovrà avverarsi, Madame Blythe. Un giorno rivedrà la sua piccola Joyce». «Ma non sarà più la mia piccina», disse Anna con labbra tremanti. «Magari vedrò, come dice Longfellow, una giovanetta vestita di grazia celeste, ma per me sarà un'estranea». «Dio saprà come fare», disse il capitano Jim. Tacquero tutti e due per un poco, poi il capitano Jim disse con dolcezza: «Madame Blythe, posso parlarle della scomparsa di Margaret?» «Naturalmente», disse Anna con gentilezza. Non sapeva chi fosse questa Margaret scomparsa, ma intuì che era il grande amore del capitano Jim. «Ho spesso desiderato parlarle di lei», continuò il capitano Jim. «Sa perché, Madame Blythe? Perché voglio che qualcuno la ricordi e pensi a lei dopo che io non ci sarò più. Non sopporto l'idea che il suo nome sia dimenticato su questa terra, e ormai ci sono solo io a ricordare la scomparsa di Margaret». Allora il capitano Jim raccontò la storia, una vecchia storia dimenticata. Erano passati più di 50 anni da quando Margaret, un brutto giorno, si addormentò nella barca del padre e fu trasportata dalla corrente, o almeno così si pensò dopo, fuori del canale e oltre la barra, trovando la morte in un furioso temporale scoppiato in quel lontano pomeriggio estivo. Ma il capitano Jim sembrava che fosse accaduto ieri. «Per mesi perlustrai tutta la costa», disse mestamente, «nella speranza di ritrovare le sue care spoglie, ma il mare non me la restituì mai. Ma un giorno la troverò, Madame Blythe, la troverò un giorno. Lei mi aspetta. Vorrei saperle dire com'era, ma non ci riesco. Spesso ho creduto di rivederla nella tenue nebbia argentea, sospesa all'alba sulla barra, o in qualche betulla bianca dei boschi. Aveva capelli castani, un visino pallido e dolce, e dita lunghe e sottili, come le sue, Madame Blythe, ma più abbronzate perché era di una famiglia di pescatori. A volte mi sveglio la notte e sento il mare che mi chiama con la voce di sempre, e mi sembra di sentire la voce di Margaret. E quando c'è tempesta e le onde singhiozzano e gemono, lei si lamenta con loro. E quando ridono in una bella giornata, è lei che ride, è la risata sbarazzina della mia Margaret. Il mare me l'ha tolta, ma un giorno la ritroverò, Madame Blythe. Non può tenerci divisi per sempre». Sono contenta che mi abbia parlato di lei, disse Anna. Mi sono chiesta spesso perché era sempre vissuto da solo. Oh, non avrei potuto voler bene a nessun'altra. Margaret si è portata via il mio cuore, disse il vecchio innamorato, rimasto fedele per 50 anni alla fidanzata affogata. Non le dispiace se le parlo un po' di lei, vero, Madama Blythe? A me fa piacere perché da anni ormai il ricordo non porta più dolore, ma dolcezza. So che lei non la dimenticherà mai, Madama Blythe, e se gli anni a venire porteranno, come spero, altri bambini nella sua casa, voglio che mi prometta di raccontare a tutti loro la storia della mia Margaret, perché il suo nome non venga dimenticato quaggiù. Capitolo 21. Cadono le barriere. Anna, disse Leslie, rompendo bruscamente un breve silenzio. Non sai quanto è bello essere di nuovo seduta qui con te e lavorare, chiacchierare o tacere insieme. Erano sedute nel giardino di Anna tra i piccoli iris che coprivano la sponda del ruscello. L'acqua spumeggiava e gorgogliava, le betulle gettavano al suolo ombre screziate, le rose fiorivano lungo i viali. Il sole incominciava a scendere all'orizzonte e l'aria era piena di una musica composita. C'era la musica del vento tra gli abeti dietro la casa, la musica delle onde sulla barra e la musica della lontana campana della chiesa presso cui dormiva la damina bianca. Ad Anna piaceva quella campana, anche se ora le portava tristi pensieri. Guardò incuriosita Leslie che aveva lasciato il cucito e parlava con una spontaneità insolita. Durante quella notte tremenda, quando tu stavi così male, continuò Leslie, ero ossessionata dal pensiero che forse non avremmo più chiacchierato, passeggiato o lavorato insieme. Allora mi sono resa conto di quanto contava per me la tua amicizia, di quanto contavi per me e di quanto ero stata odiosa con te. Leslie, Leslie, non ti permetto di usare certe parole. È vero, è proprio quello che sono, odiosa e antipatica. C'è qualcosa che devo assolutamente dirti, Anna. Magari poi mi disprezzerai, ma devo confessarla. Anna, ci sono stati dei momenti durante l'inverno e nella primavera in cui ti ho detestata. Oh, l'ho sempre saputo, disse Anna con calma. Lo sapevi? Oh, sì, te lo leggevo negli occhi. Eppure hai continuato a volermi bene e ad essermi amica. Beh, mi detestavi solo di quando in quando, Leslie. Negli intervalli mi volevi bene, almeno credo. Certamente, ma quell'altro orribile sentimento era sempre in agguato in fondo al mio cuore e rovinava tutto, lo tenevo a bada. A volte lo dimenticavo, ma a volte saliva a galla e si impadroniva di me. Ti odiavo perché ti invidiavo. Oh, a volte l'invidia per te mi rodeva. Avevi una bella casetta, avevi amore, felicità e sogni lieti, tutto quello che io volevo, che non avevo mai avuto e che non avrei avuto mai. Sì, io non avrei mai avuto tutto questo. Ecco quello che mi tormentava. Non ti avrei invidiato se avessi avuto una qualche speranza in una vita diversa, ma non l'avevo proprio e non mi sembrava giusto. Provavo un senso di ribellione, soffrivo e perciò a volte ti odiavo. Oh, me ne vergognavo tanto, me ne vergogno da morire anche ora, ma non riuscivo a dominarmi. Quella notte, quando ho temuto che tu non sopravvivessi, ho creduto di essere punita per la mia malvagità e allora ti ho voluto bene. Anna, oh, Anna. Dopo la morte di mia madre non ho mai avuto nessuno a cui voler bene, tranne il vecchio cane di Dick, ed è terribile non avere nessuno da amare. La vita è vuota e non c'è niente di peggio del vuoto. Pensare che avrei potuto volerti tanto bene e quel sentimento orribile, agguastato. Leslie tremava e, colta dall'emozione, quasi straparlava. Basta, Leslie, la implorò Anna. Basta, ho capito, ma ora non parliamone più. Oh, devo parlarne. Quando seppi che eri salva, giurai di dirti tutto non appena ti fossi rimessa. Giurai di non continuare ad accettare la tua compagnia e la tua amicizia senza dirti quanto ne ero indegna. E ho avuto paura che la mia confessione ti allontanasse da me. Non hai nulla da temere, Leslie. Su. Oh, sono tanto contenta, Anna. tanto, tanto contenta. Leslie serrò le mani brune e sciupate dal lavoro per fermarne il tremito. Ma ora che ho cominciato, voglio dirti tutto. Tu non ricorderai quando ci siamo viste per la prima volta. Non era quella sera sulla spiaggia. No, fu la sera in cui io e Gilbert arrivamo a casa. Tu stavi guidando le oche giù per la collina, certo che lo ricordo. Mi ha subito colpito la tua bellezza. Per settimane mi sono chiesta chi fossi tu. Io sapevo invece chi eri tu, anche se non vi avevo mai visti prima. Avevo sentito dire che il nuovo dottore veniva a vivere con la sposina nella casetta della signorina Russell e in quel momento ti ho odiata, Anna. Lessi l'animosità nel tuo sguardo. Poi ci ripensai, credetti di essermi sbagliata. Perché avresti dovuto odiarmi? Perché eri raggiante di felicità. Oh! Devi ammettere che sono odiosa. Arrivare a detestare un'altra donna solo perché è felice, senza che la sua felicità mi tolga nulla. È per questo che non veni mai a trovarti. Sapevo che avrei dovuto farlo. A Four Winds siamo gente semplice, ma rispettiamo le regole della buona creanza. Però, oh, mi era impossibile. Ti osservavo dalla finestra, ti vedevo passeggiare in giardino con tuo marito la sera, o ancora gli incontro sul viale dei pioppi, e mi faceva star male. Eppure, per altri versi, desideravo venire. Sentivo che se non fossi stata tanto infelice avrei potuto provare simpatia per te e forse avrei trovato quel che non avevo mai avuto in vita mia, una vera amica del cuore, della mia stessa età. E poi, ricordi quella sera sulla spiaggia? Temevi di sembrarmi pazza? Semmai lo sarò sembrata io a te. No, ma non sono riuscita a capirti, Leslie. Prima ti sei aperta, poi subito mi hai respinta. Ero molto infelice quella sera. La giornata era stata dura, Dick era stato indisciplinato quel giorno. Sai, Anna, di solito è buono e tranquillo, ma a volte è tutto l'opposto. Io ero così depressa. Corsi alla spiaggia appena lui andò a dormire. Era il mio unico rifugio. Pensai a lungo a mio padre, poveretto, e a come l'aveva fatta finita, e forse un giorno o l'altro la disperazione avrebbe portato anche me a quel punto. Oh, vedevo tutto nero. Allora ti vidi arrivare sulla cala a passo di danza, come una bambina felice e spensierata. Non ti ho mai odiata come allora, eppure volevo la tua amicizia con tutta l'anima. A tratti ero dominata da questo sentimento e subito dopo dall'altro. Quando tornai a casa quella sera, piansi per la vergogna, pensando a come dovevi giudicarmi, ed è sempre stato lo stesso quando venivo da te. Altre volte quel terribile sentimento guastava tutto. Allora il tuo mondo, la tua casa, mi procuravano sofferenza. Avevi tante belle cosucce che io mai avrei avuto, sai. È ridicolo, ma avevo un'antipatia particolare per quei tuoi cani di porcellana. A volte avrei voluto prendere Gog e Magog e fracassare quei loro insolenti nasi neri. Oh, tu sorridi, Anna, ma per me non è mai stato divertente. Venivo qui e vedevo te e Gilbert con i vostri libri, i vostri fiori, le vostre piccole divinità casalinghe, i vostri scherzi privati, l'amore reciproco, che a vostra insaputa traspariva da ogni sguardo e da ogni parola. E poi tornavo a casa e sai cosa ci trovavo? Oh, Anna, non credevo di essere invidiosa per natura. Quando ero ragazza, le mie compagne avevano molto più di me, ma non me ne importava, non le ho mai detestate per questo. E ora sono diventata tanto odiosa. Leslie, cara, non devi buttarti giù così. Non sei né odiosa, né cattiva, né invidiosa. Forse la vita che fai ti ha danneggiato il carattere, ma avrebbe guastato una natura migliore e più nobile della tua. Ah, ti lascio parlare perché credo che per te sia meglio sfogarti e liberarti del peso che ti opprime l'animo, ma non devi buttarti giù così. Va bene. Volevo solo che mi conoscessi per quello che sono. Quando mi confidasti la tua dolce attesa per la primavera, fu il momento peggiore, Anna. Non mi perdonerò mai per come mi sono comportata. Me ne pentii piangendo calde lacrime e mentre cucivo l'abitino pensavo spesso a te con vero affetto, ma avrei dovuto immaginare che una cosa uscita dalle mie mani poteva servire solo come sudario. Su, Leslie, questo è pessimismo morboso, non devi pensare cose del genere. Su. Ero tanto contenta quando portasti l'abitino e dal momento che la piccola Joyce doveva morire, mi piace pensare che indossi l'abitino fatto da te quando hai imparato a volermi bene. Sai, Anna, credo che ti vorrò sempre bene d'ora in poi. Penso che non proverò mai più per te quel terribile sentimento. In certo senso averne parlato è come averlo eliminato. È strano. Mi sembrava reale e intenso. È come aprire la porta di una stanza buia dove credevi di trovare una creatura mostruosa e accorgersi che il mostro è solo un'ombra, che svanisce all'arrivo della luce. Non verrà più a dividerci. No. Siamo vere amiche ora, Leslie, e ne sono felice. Oh, spero che tu non mi fraintenda se dico un'altra cosa, Anna. Mi hai immensamente addolorato la perdita della tua piccina, e se tagliandomi una mano avessi potuto salvarla, l'avrei fatto, ma il tuo dolore ci ha avvicinate. La tua perfetta felicità non è più una barriera che ci divide. Oh, non fraintendermi, cara, non sono contenta che la tua felicità non sia perfetta, lo dico sul serio, ma così le distanze tra di noi si sono accorciate. Capisco anche questo, Leslie, ma ora chiudiamo con il passato e dimentichiamo le cose sgradevoli. Ora sarà tutto diverso. Ora siamo tutte e due della razza di Giuseppe. Sei stata meravigliosa e Leslie, non posso fare a meno di credere che la vita abbia in serbo per te ancora tante cose belle. Leslie scosse la testa. No, disse con voce sorda, non c'è speranza. Dick non migliorerà mai, e anche se gli tornasse la memoria, oh, Anna, sarebbe peggio, molto peggio di com'è ora. Tu, che sei una moglie felice, certe cose non puoi capirle. Anna, la signorina Cornelia non ti ha mai detto perché ho sposato Dick? Sì, sono contenta. Volevo che tu sapessi, ma non sarei riuscita a decidermi a parlarne, altrimenti. Oh, Anna, la vita è stata sempre amara per me dopo i 12 anni. Prima avevo avuto un'infanzia felice. Eravamo poverissimi, ma non ce ne importava. Papà era stupendo, intelligente, affettuoso, comprensivo. Per quanto ricordo, siamo sempre stati buoni compagni. E la mamma era dolce, era molto bella. Io le assomiglio, ma non sono bella come lei. La signorina Cornelia dice che tu sei molto più bella. Si sbaglia, o è prevenuta. Forse ho una figura migliore. La mamma era magra e curvata dal troppo lavoro, ma lei aveva un viso d'angelo. La guardavo sempre con adorazione, la adoravamo tutti. Papà, Kenneth ed io. Anna ricordò che la signorina Cornelia aveva presentato sotto una luce diversa la madre di Leslie, ma non era l'amore ad avere la vista migliore? Tuttavia era stato un vero egoismo ad indurre Rose West a far sposare Dick Moore alla figlia. Kenneth era mio fratello, continuò Leslie. Oh, non so dirti quanto bene gli volevo, e morì in modo orribile. Sai come? Sì. Anna, ho visto la ruota che gli schiacciava il faccino. Poi cade sulla schiena. Oh, Anna, mi sembra di vederlo ancora adesso. Continuerò a vederlo per sempre, Anna. Al cielo chiedo solo che quel ricordo mi venga cancellato dalla memoria. Oh mio Dio! Leslie, non parliamone più, so tutto. Non entrare in particolari che ti tormentano inutilmente. Vedrai che sarà cancellato. Dopo un attimo di lotta interiore, Leslie riacquistò un certo autocontrollo. Poi la salute di mio padre peggiorò. Era sempre abbattuto e perse l'equilibrio della mente, avrai saputo anche questo, vero? Sì. A quel punto la mia sola ragione di vita era la mamma, ma io ero molto ambiziosa. Volevo insegnare e guadagnare il denaro per frequentare l'università. Volevo arrivare in alto. Oh, non intendo parlare di questo. Non serve. Sai cos'è successo? Non riuscivo a sopportare l'idea che la mia mammina, disperata com'era e con la vita da schiava che aveva fatto, dovesse abbandonare la sua casa. Naturalmente avrei potuto guadagnare abbastanza per mantenere me e lei, ma la mamma non poteva assolutamente lasciare la sua casa. Vi era entrata come giovane sposa e lì aveva amato papà e lì c'erano tutti i suoi ricordi. Eppure Anna. Se penso che l'ho resa felice nell'ultimo anno di vita, non mi pento della mia decisione. Quanto a Dick, non lo odiavo quando lo sposai. Provavo per lui lo stesso generico sentimento di cameratismo che avevo verso i compagni di studi. Sapevo che beveva un po', ma non avevo mai sentito parlare della storia tra lui e la ragazza del villaggio dei pescatori, altrimenti non avrei mai potuto sposarlo, nemmeno per amore di mia madre. Dopodiché l'ho odiato, ma la mamma non lo seppe mai. Morì e io rimasi sola. Avevo solo 17 anni ed ero sola. Dick si era imbarcato sulla Quattro Sorelle. Sperai che non tornasse a casa spesso. Aveva sempre avuto il mare nel sangue, non avevo altra speranza. Beh, il capitano Jim lo riportò a casa, come sai, e qui finisce la storia. Ora sai tutto, Anna. Conosci il peggio di me e tra di noi sono cadute le barriere. Vuoi ancora essere mia amica? Anna alzò lo sguardo tra i rami delle betulle alla mezzaluna, simile a una bianca lanterna cinese che digradava a occidente verso il golfo. Aveva sul viso un'espressione dolce. Sono amica tua e tu sei amica mia. Per sempre, disse. Un'amica come te non l'ho mai avuta. Ho avuto care amiche a cui ho voluto molto bene, ma c'è qualcosa in te, Leslie, che non ho mai trovato in nessun'altra. Tu hai tanto da offrirmi perché sei ricca dentro, ed io ora posso darti di più di quanto abbia mai avuto da dare negli anni spensierati della mia gioventù. Siamo donne e amiche per sempre. Si strinsero le mani e si sorrisero tra le lacrime che velavano gli occhi grigi e quelli azzurri.